è proprio quello che vorrei capire anch'io bene, infatti sto pensando di disporre una indagine amministrativa proprio per capire che cosa è successo, perché c'è stato un livello di allarme elevatissimo e poi in pochissimo tempo, in un'ora o due, si è risolto tutto quanto. Ecco, c'è una sproporzione tra il livello di allarme e la, diciamo, facilità, tra virgolette, con cui questa questione si è risolta. Avrei proprio piacere di capire esattamente cosa c'è stato, se c'è stata una disfunzione organizzativa, e allora in questo caso si va a verificare come e perché, e quindi ad adottare le misure conseguenti. Se non c'è stata, e allora in questo caso si va a capire per quale ragione c'è stata tutta questa, diciamo, rappresentazione anche mediatica. Credo che sia nell'interesse, della sanità del Lazio, proprio quello di, capire meglio queste cose come avvengono, ecco, anche perché di per sé appunto non c'erano premesse perché si creasse una situazione di così grande apprensione. Nel caso di specie, quelle quattro strutture ospedaliere del Lazio coinvolte in questa, diciamo, difficoltà di ieri, che poi appunto si è risolta in qualche ora, e quindi probabilmente qualche, diciamo, c'è stato qualche cosa che ancora dobbiamo capire, sono strutture in cui la dotazione di posti letto nelle aree a supporto del pronto soccorso, la dotazione di posti letto è o invariata o in aumento, cioè